debolezza per controllare. Sì, sono io. Mi hai lasciato sulle labbra il rosso dell'alchermes, il tuo herpes. Uomini contro insetti, bombe nucleari sugli alveari. In caso di emergenza battere di resort su isole sospese tra il polo sud e il polo nord, dove si arriva soltanto coi soldi, dove anche i mori diventano biondi, dove tu non sei tu e io non sono. dove tu non sei.